quel lavoro che faccio, faccio un giorno, se no faccio 2-3 giorni, io quando lo faccio e basta, non deve, non devono rimanere di più, non serve. Io vi ho detto intorno ai 15 giorni. Le bacche, non le sfugge, le bacche. Allora lo faccio adesso. Quello lo lascia stare così. E tu fai solamente l'acqua con lo zucchero, ce l'ho fatta, come quel dosaggio più o meno a occhio che ti ho detto io, dai. Sai, senza dire la radio, sennò poi ci sbloccherò il prefetto. Fatta, non ti preoccupare. E dopodiché posso già unire nel momento in cui raffredda. Domani che è freddo lo mischi, capito? Domani che è freddo, e che se tu lo prepari da stanotte lo lasci stare, domani e quando è freddo lo mischi assieme. Io l'ho già andando a farlo, allora ci sentiamo dopo. Affatto. Capivo, l'apparato acceso, ma non capivo se l'apparato e il computer sopra acceso, non capivo se la voce venisse dall'apparato che era acceso o dal computer. Ho spento l'apparato perché dal computer sentivo chiari francesi che parlavano all'apparato. Pensiamo la mia e questa cosa qui. Solo uno acceso. La vecchiaia fa brutti scherzi. Io mi sto tenendo adesso. E te lo sto dicendo, non è questione di vecchiaia, è questione che era vero. L'ho sentito proprio nel computer, sentiva chiaro. È possibile che la bobina delle casse abbia fatto da cosa? Da antenna? Dopodiché qualche dio dal Germania, come sempre abbiamo detto, che ti aveva fatto sentire sulle casse stesso la radiofrequenza. Non si spiegavano, però in effetti. Radio Galena, capisci tutto. Aspetta, che volevo sentire una cosa. Non mi si sta facendo male il lavoro, mia Gianni. Quello quando si vogliono guadagnare troppi soldi, mentre ai ricchi succede quello. Senti un attimo. Chiama il Ghostbuster che c'hai la casa piena di spiriti, o striscia notizia filamentosa. Massimiliano, lo spirito sei tu, adesso ho capito la storia. Allora io ero su internet, stavo guardando quel link che hai mandato tu, poi ho girato, stavo guardando le altre cazzate, senza ricordarmi che stavo guardando prima il tuo. Ed è andata a fare, ecco cos'è. Il filmato di quel ricevitore che ho per Perseus. Te l'ho detto, la vecchiaia è carogna. Se non capivo, ho spento l'apparecchio, ma non era l'apparecchio. Se continuo a guardare, poi ho ascoltato bene il computer, che cazzo è? Come fa a entrare? Questo qui è qualche cosa radioamatoriale, sarà 40 metri, 50 metri, boh. Cazzo dici tu? Gianni. E Grobbe si stava sforzando a fare il filosofo, a dare un perché alla situazione. Capito quanto ti voglio bene, pur di non farti apparire un po' rinco, capito? Poi dice che non ti voglio bene, uia. Una cosa che può succedere a tutti, allora io sto guardando il link di Massimiliano, dove c'era quel ricevitore. Praticamente stavo ascoltando della musica prima, e quindi cosa succedeva? Che copriva quel link di Massimiliano, dopo è finito qualcosa musicale, io ho continuato a girare per guardare gli altri link. A un certo punto mi sento questa radio, tipo proprio come fa la radio amatoriale, no? Che rumore che fa. E poi sento dei francesi, ho detto, cazzo, e poi? E la radio non so che cosa, Fatto questo qui è qualche interferenza. Ho pensato anche a Tone, ho detto no, non penso che abbia acceso nessuno un apparecchio di Tone, perché se no ce l'ho di fronte, capito? Ah, però riceve bene quel ricevitore con la scatoletta, eh? Che scatoletta, già è abbastanza avanti. Quello che vedi è un computer, quello è un monitor touchscreen collegato a un computer, non è quello che riceve. Quello che fa tutto è una scatolettina piccolina che si chiama Perseus, è un dispositivo USB, ma è piccola, non è grande. Io ho questo ricevitore che però non mi soddisfa molto. C'avevo lo IAESI ed era difettoso e gliel'ho mandato indietro, me ne ha mandato un altro che più o meno costava lo stesso della Polma, però poi lo sento basso, non sento le stazioni molto furti là. E poi l'ho visto insieme perché durano troppo poco, praticamente senti la stazione poi e parte l'altra. Guarda, se hai intenzione di fare il radioascolto, ti dico solamente che i migliori ricevitori, perlomeno dalle mie esperienze, sono gli ICOM. Se riesci a trovare un CR7000, però tieni conto che il CR7000 ha un problema, fa da 24 MHz in su e le bande HF non le ricevi. E infatti per quello me lo sono cambiato, mi sono preso l'ICR 8005 tempo addietro. Si trovano a prezzi abbastanza contenuti, sono 700-800 euro, 8000 secondo prezzo, specialmente in questo periodo, però è un signor ricevitore, come avere è un apparato radioamatoriale a tutti gli effetti, non trasmette, però c'ha un buon ricevitore. Io l'uso con il discone per quanto riguarda diciamo le 30 MHz in su, e lo stavo usando con un'antenna attiva che si chiama ARA30 della Dressler, praticamente fisicamente ha uno stilo alto 1,20 m mi pare, e poi c'ha un corpo in alluminio alla base dove all'interno c'è un circuito con un preamplificatore a doppio gasfet e va alimentato come se fosse un'antenna televisiva e serve solo esclusivamente per ricevere. No, io ho fatto i paragoni con le altre antenne che ho e riceve anche bene, perde di un punto, uno o due punti, ma io parlo in 160 metri piuttosto che in 80 metri. Io sto usando adesso con il Perseus, quel dispositivo USB, quel filmato che tu stavi sentendo, quel francese lo stavo aspettando con questa antenna alta 1,20 m che riceve benissimo. Ripeto, se vuoi fare un radioascolto veramente, seriamente, e ascoltare stazioni, ti devi buttare su un buon ricevitore, che ripeto, può essere un ICOM 8005 piuttosto che altri. Io ho provato gli AOR, ho provato altri ricevitori e sinceramente sono giocato. No, non perché io abbia l'8005, per carità, è proprio un dato di fatto, ho fatto delle comparazioni, ecco. E gli altri funzionano, per carità, però non hanno le prestazioni che possono avere un ricevitore di una certa qualità. Poi ho avuto lo Jupitero che era molto buono come ricevitore, Jupitero, poi lo Iaesu, come si chiamava, 2, non mi ricordo adesso come si chiamava esattamente, comunque tutti portatili, però capito, non ne ho mai preso stazioni fisse. Lo Jupitero era favoloso, solo che una volta l'ho messo in carica e l'ho trovato incendiato, si è sciolto. Aspettino, bella sfortuna. Io guarda, come ricevitori portatili, buono, io ho l'ICR10. Ed era veramente una bomba, perché aveva anche le bande laterali, aveva. E diciamo che tutto sommato era un buonissimo ricevitore per essere portatile. Però ripeto, se vuoi fare un radioascolto di un certo livello, cioè serio, nel senso facendo e voglio ascoltare, la serie ICOM, a parer mio, è una delle migliori. un prometto di come qualità prezzo, di seconda mano, LCR 8005. Hai tutte le AK che fa da zero fino a 1003 mi pare. E se ci agganci delle buone antenne, vai tranquillo che ascolti, ascolti alla grande. Se c'è questo problema, ascolti tutto fatto. Ha le bande laterali, ha i filtri, ha la FC, cioè di tutto e di più. È come avere un retrotrasmettitore radioamatoriale a tutti gli effetti, di buona qualità. Solo che ti manca il trasmettitore, ma nella tua condizione, nel tuo caso, va bene, ecco. E puoi fare un radioascolto di un certo tipo, cioè nel senso che accendi e ascolti realmente. Appaga, perché stanno sovramodulando lì sta? C'è un piccolino che è scatenato in questi giorni. Ah, se lo fa. Si sente, Argento vivo. Senti, sì. Sta da una parte all'altra, è quello che si sveglia presto la mattina e continua già per terra e continua la notte, così. A diventare pazzo. Siamo sciolti, siamo, non ne possiamo più. Chi è che lo vuole comprare? Oh. Ferma la mena a posto, un attimo. E comunque, non so, comunque anche gli aerei sono buoni, vero? Grodino. Parla qua, Dio, ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao, sono Pietro. Sì. E sono molto monello. Siediti. Sono molto monello. Io Gianni, sono Gianni. Gianni, qui si chiama Gianni, doppio rum. Non toccare. Ciao, fai da bravo. Ah, bello. Bello sei tu, amore. Kappa, non fare di là da papà e a mamma, devi fare da brava. Diglielo, cosa è successo? La bua, e dove te la sei fatta? No, questo lascia stare, questo è per parlare. Ehi, la parola lì, ecco, poi parla anche in arabo ancora. Dani. Ehi, dimmi Pietro, dimmi. La bua? Chi te l'ha fatta la bua? No, c'è il cendolo. Si accende? Accendi. Accendi che cosa? Sì, premo qua così. È sempre acceso. E tanto quando era più grande tocca tutto, io. Non le valli! Guarda. Non le valli! Cosa? No. Cosa devi levare? Lascia te il microfono. Mi posto? Dai, saluta, ciao Gianni. Non le valli! Come no? Tuttavia. Come non è Puglia? Non è questo. No, quello lascia stare, quello è l'altro microfono, lì non ci puoi parlare. Quello. Non ti avvicinai troppo. Vedeteci. Non sente niente. Vedeteci. Certo, dai, digli, ciao. No. Più rum. No, uno. Gli hai detto chi sei? Devi dire, ciao, mi chiamo Pietro. Diglielo, ciao, diglielo. Ciao. E io adesso ho capito tutto. Non voglio, no. Vabbè, dici ciao Gianni. Non voglio. Sì, e lui deve andare a nonna, deve andare Gianni. Non voglio. Tu non la fai a nonna, qui. Non ho voglia. Non hai voglia? Non è bene. Non parlare vicino, che sennò non capisci niente. No, non può fare. Poverità. È ancora ardillo. Arzillo. Senti. E poi va addosso a quell'altro poveraccio che non ne può più le basette, che è stanco. Perché oggi si è fatto un'altra mattinata, anzi mezza giornata di hospital, ed è stanco, non ne può più le basette. E quello gli va addosso come un treno. Piccolino non capisce. Lo so, è quello che vuoi farci. Guarda, sentite com'è, bello arzillo e vispo. È una molla. Grode. Grode c'è lontano dal tuo cuscino, non hai detto niente. Oh, la ragazza lo sta picchiando forte dal mattarello. Allora. No, lo accarezza magari, non lo picchia. Vabbè. Come sappiamo. Gappa. Ma no, già li vuole bene, ci vede che li vuole bene. Qua ci dici qualcosa di lui. Quel pazzo scendendo non ti permette. Subito lo difende a spalla. Fino a quando non vedi i filmini con quelle tipe che gli abbiamo fatto a Piazza dei Segni. Ah, ecco. Se lo ricattiamo a grotto. Non c'è piccolo, dove se lo sta cenando, ma... E comunque, ha fatto una cosa un bel strano, mi sembrava, è toccata. Qualche interferenza. Non era con il computer. E invece c'era il tuo link che stavo guardando. Ma sei in moto, sì? Gianni, in moto, sì. Con il finestrino aperto. Si è tenuto un vento che ti porti appresso. Io. E poco fa di in sottofondo, vedi in macchina col finestrino aperto. Stavo respirando. All'anima. E ho stato l'ansia. Sta succedendo anche di notte, non deve essere il troppo stesso dal lavoro. E... mi sta uccidendo questo periodo, mi stanno gribbendo in gruppo. E quindi mi prendo questi versati d'ansia, dove gli scorsoni la notte faccio così, no, e poi respiro così male, boh. E gli stati proprio l'ansia. Non è... non sono belli. No, anche perché ti spaventi, ti svegli soprassalto, capito? Per cominciare a respirare affannato. Poi cerco di non pensarci, perché viene tutta la cucina del lavoro, cerco di non pensarci, poi mi trovo. Non è una cosa bella così. Adesso l'ansia sono di carattere, non è... sono di quelli che devo fare. Infatti se da futile io sempre andando. Vabbè, è una questione caratteriale. Abbiamo bisogno un attimino che preservarsi, sennò diventa un problema. Speriamo di no, perché a periodi, quando c'è molto lavoro che me lo fa, che stai a pensare, a rimuginare domani e questo e quell'altro. Notte, ho fatto a bedroomi, me lo stavo dicendo anch'io, ma stavolta ho dormito dalle 2:30 in poi, fino alle 7, no? Perché prima delle 2:30 non riuscivo a prendere soldi. Ti senti? La stazione sovrastrutturante. Hai fratello Monello, succede quello. Ecco. Vedi che ha fatto tutto, ok. No, l'ha sgridato la mamma e basta, perché era con i piedi nella schiena del grande. Io. La bilandra. Ehi, sono bilandra, per carità. Già meglio che siano svegli, ma grande truppo è troppo. Ci si lamenta sveglia, troppo. Avevo un amico che aveva un figlio così, saltava da un divano all'altro, sembrava un gatto. Saltava con i piedi sopra, i divani. Il padre si incassava un bel, perché erano i divani anche di quelli in pelle chiara. Tutti assegni, tutti così, no? Qua. E faceva tutti così. È così, è allucinante. Si sta arrampicando anche sul muro. Noi abbiamo un muro a roccia sporca e lo vedo ogni tanto fa un ragno e si arrampica. No, ma che va? Che? Come che? Oggi no? Mamma mia, ma come ci male? Dove vuoi va? Qui a Gasper. Gasper è Casper, non Gasper. Senza Gasper. Ma se usciamo male. Meno male, guarda un po'. Tu? Io lo... boh, ho l'effetto riverbero troppo stretto che gli fa questa modulazione strana. Da dove? Così, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che fatto ho detto chi è? Perché non l'avevo riconosciuto sinceramente. Adesso? Faccio di 1, 2, 3, viverrei, adesso sto modulando con un nuovo riverbero. Abbasso un tantino. 2, 3, 1, 2, 3, ho abbassato il microfono, guarda come sta uscendo. Sì. Ah, guarda, devo essere sincero, se vuoi la verità, per me non sta uscendo bene, nel senso che si sente che sei quasi strappato quando moduli, è un po' compresso, non, cioè perlomeno le mie orecchie si sentono così, tenendo conto che sto usando le cuffie in modo da sentire al meglio la modulazione. Non so cosa dirti, forse sarà la vicinanza. A me non sembra di riuscire a essere affatto, guarda un po'. Adesso si è uscito meglio, molto molto meglio e pulito. E così è come lo controllo io, è l'ultimo passaggio a terra perché ho detto che stavo uscendo bene. Sto uscendo bene. Adesso sì, ma poco fa no. Poco fa è una cosa anch'io, che non usciva bene. No, perché realmente non sto toccando niente. Adesso sì, di nuovo compresso, come se avessi attaccato un lineare ormai. E io cerco il lineare che ho 25 euro, buttacelo via, non serve a mica. Forse. Buttaci via quel lineare che ho 25 euro, che non ti serve a nulla. Quello già serve, che ti dico la verità, forse con 5 ampere non ce la fa a pilotarlo, capito? 25 watt non ce la fa. 5 ampere forse no. Ma no. Devo abbassare un attimino la potenza di questo trasmettitore. Così lo faccio. Fallo. Fate un attimino, dai, che mi date un giudizio. Sto aspettando una persona, un'amica per iniziare a cucinarla, e devo farla io proprio. Mi raccomando, eh. Ai. Questo cosa gli fa male? Buonasera signori. No Sandro, non ci siamo, sei compresso anche tu. Mi sentite? Con l'orecchio va male, buonasera, Massimiliano Archimede, c'è Gianni di Doppio Room e Grobbe che sta scacciavitando mentre che si sta preparando la pasta. Buonasera signori, quindi abbiamo il croce ai fuochi. Sandro, ben sentito, aspetta un attimino che sto aprendo qua la scatola di tonno per vedere se riesco a farlo uscire un attimino meglio. Occhio, spero che vada a prendere il spazio da terra. Già fatto. Archimè. Ehi, che improvvisamente mi si è sollevato il QRM, c'è qualche uno qua con qualche cineseria e mi crea un po' di disturbo che due bolts. Provo a chiedere una cosa, ma l'ingresso di dell'apparato si somma poi al lineare o il lineare una volta che lo filtra? Cioè, se io entro con 5 watt, poi se il lineare è da 20, esco con 25 watt oppure comunque azzera l'uscita dell'apparato ed esce solamente con l'uscita del lineare? No, l'ingresso viene utilizzato come driver, ma non è che si somma con l'uscita del lineare assolutamente, però è in relazione con l'uscita del lineare, nel senso che se io quel lineare con 10 watt di ingresso mi dà 100 watt, è logico che se lo piloto con 5 me ne darà la metà, però assolutamente non è che vai a sommarlo, se quel lineare è da 100 watt con 10 watt di pilotaggio non è che faccio 10 più 100 fa 110, 100 watt mi dà. Guarda un attimino, adesso sto trappando, giusto? Guarda, ti ho detto che c'ho questo QRM e mi sta sfalsando adesso un attimino le ricezioni, che mi arrivi a 9 e non riesci a superarlo come diciamo come pulizia, perciò non ti posso più dare un riscontro. Sandy, tu cosa mi dici? Buonasera a tutti, allora, attimino, scusate, devo regolare, mi sentite? Sì. Ehi, ciao Luca. Hai anche l'apparato per farlo. Guarda un attimino, sto strappando. Non ho capito, c'è l'apparato? C'è il K, quindi mi ricevi bene. Guarda un attimino se sto strappando. No, ti ascolto un po' compresso, non stai strappando. Allora voglio abbassare un attimino la potenza di uscita perché se sto uscendo compresso è perché evidentemente sto entrando con troppi watt dentro l'apparato. Non ferma, cerca di abbassare un po'. Dentro l'apparato, dentro la scarpetta. Guarda, aspetta, se giro così, guarda se è successo qualcosa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sono sempre compressa, non molto, ma ci sento la compressione. Capito tu. Cerca di chiarificare un po' la radio, ma magari abbiamo regolato il rap, non prova. Guarda un attimino, faccio così, cosa succede? Ora, ora, ora. Guarda, c'è un disaccordo lì, neanche che capi in testa, apposi tu. Un attimo, ora, ora, ora. Adesso? Da un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, un po', diciamo che è accettabile, eh. Adesso 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Allora, ci vuoi va bene. Non è chiaro, un po' si sente, no? Va bene, lasciala così. Vogliamo cose accettabili, vogliamo cose buone, guarda un po'. Ma se ciò la sala così, io te ne puoi peggiori. Stavo tutta la notte così a tu. Lascio così, ora, ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Fa una cosa, no? Sto così, come fa per leggere e scrivere. Stacca un attimo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Questo è staccato. Sì, è chiarissimo. Riprova, attacca, attacca. 2, 3, 1, 2, 3, prova. Questo è attaccato. Poco, dai. Cioè, che attaccato è chiara. Invece l'attaccato mi sa già essere un po' compressa, ma... Va bene, dai, non è che sia... Non è malvagia, diciamo. Ti conviene... Quanti watt saranno d'ingresso, scusa? Ormai si è spaccato il trimmer, no? 5. Evidentemente ha bisogno di qualcosa in meno. Però evidentemente la modulazione che sta un pochettino strappando. Guarda, prova ad andare in FM al volo, per vedere se sta modulando in FM, perché a seconda di come lo tocco questa non modula più in FM. Da un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, così alto, va bene. Va bene, va bene. Non so gli altri, ma Massimiliano, secondo me, facendo male. Diciamo, siamo stati allenati, ma è comprensibile, va bene. Non lo so, io così ti ascolto. Ma la registrazione non me la puoi fare, Massimiliano? Mi viene un po' male adesso. Fastidiosa come modulazione. È brutta, è compressa. Non è bella. Toccare un'altra cosa, guarda così, aspetta, eh. Adesso come sta uscendo? Sempre compressa. Cioè io perlomeno non ho notato variazioni, è compressa, brutta. Sì, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Bratto, vero? No, giusto. Chi non piange. E la tengo così. Non si può fare diversamente, la tengo così. Ora, ora, ora. Anzi, tocco qualcosa, esce. Io la metto così. Ora, ora, ora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Senti quei compensatori, quelle infitti che vedi, in lente. Stringile tutto, così sei a posto. Sarebbe il gioco. Questo apparato si possono toccare solo tre viti, che sono, no, anzi due, aspetta un attimino, tutto satiro, sì, no, satiro, e non è bello la modulazione tanto, strano, ma o è la batteria che se ne sta andando di questo microfono, quando muore si sente tipo uno scorreggio, è vero, lo sto sentendo anch'io. Deve essere la batteria del coso, del mic. Trudiente, sì. Trudioni. Ciao, tu. Mi sento un po' strano io, veramente. Ho una versione un po' strana. Non è bella chiara come sono, ti ascolto solitamente. Sono anche dall'altra parte. Una QTH degli astronauti. Oh, c'è il dottor rumore, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, sembra che stai sparando. Ma evidentemente come si è caricato, non so, se c'è più watt del solito, il segnale è molto alto, però la radio non è bella, tu. Ok, è il coso, è la batteria che se ne sta andando del mic. Quei microfoni consumano un bel di batteria. Vabbè, buonasera a tutti, comunque vi sto ascoltando e sono entrato così a dire una cosettina, ma niente di particolare, abbastanza chiara la modulazione, nel senso che è compressibilissima, però è leggermente satura, è un po' compressa, manca di tonalità. Fa grazie, adesso vediamo un attimino, provo a cambiare, vediamo cosa esce fuori. Comunque buonasera a tutti, dai, sono entrato così come un asinello. staffa, andrà a salutare. Ciao Antonio, ti ho salutato e anche io sono in correzione. Non ho problema di parlare. Sono qua, vi ascolto, riprendete. Buon proseguo a tutti, alle prossime. Ciao. Ah, ok, dai, chiudo anch'io, dai. A Grote le regaliamo una di queste radio, almeno non tocca niente, anche prima e non là. Ok, dai. Vi saluto tutti, dai, ci sentiamo. Tanto ciao, è questione di microfono sicuramente. Va bene, ciao a tutti, alle prossime, ciao Lugari. Ciao Claudio, ciao Massimiliano, ciao a tutti, ciao ciao. Tutti morti. Tutti qui. Sì. Ah. Oh, no, che sono. Gisè, stasera stavo parlando di temi. Aspetta. Detto. Cosa ho detto? In bene o in male? Te, come posso parlarne bene di te? Sempre in male. Allora va bene. Adesso farò un pensiero anche io, Anto. Ringrazio. Però no, sto scherzando. Stavo parlando con Antonello di Fusaro. Mi stava chiedendo di te. Mi ha detto appunto che ogni tanto ci sei lì. Quanto vado e... adesso vado a comprare, sono clienti nostri, eccetera, eccetera. Lo stava dicendo, me lo stava dicendo proprio stasera, perché mi stava appunto chiedendo come stava andando la frequenza, chi c'era, se si era riaccesa, se c'erano persone. Ora mi stava facendo un paio di nomi e stava parlando anche di te. Oh, guarda, comunque te l'ho registrata l'alfa, adesso te la preparo, faccio il filmattino e lo metto su Google, su Facebook, poi te lo ascolti. Ragazzo, infatti io sono stato il primo che gli ho preso l'apparecchio, come li ha portati, sono stato in un traverso quello lì. Uno dei primi a comprarlo, ovviamente me l'ha detto, prima abbiamo comprato lo Zeus, però ho comprato questo qua. Che cos'è? X-Pro si chiama, il più piccolo, quello senza trasmettere niente. Lo Zeus c'ha lo Smith, e poi c'è l'altro che mi sembra si chiama, non me lo ricordo. Allora praticamente si nasconde in macchina e c'ha tutto sopra il microfono. Tu devi, cioè, metti solo tutto quello che fai, lo fai tutto dal microfono, non fai niente. Tu lo metti sotto, dove vuoi il baracchino, capito? Si chiama il Venus. Visto? Ma non lo so come esce, bisogna provarlo. Entro poi alla fine sono tutti uguali, Ma è quello lì quanto l'hai pagato, quello piccolino? 5 euro. Tu se stai schiacciando la portante e non parli prima di schiacciare la portante, non ti capisco. Quanto? 65 euro. Si può modificare? Guarda, non ha un trimmer dentro, lo abbiamo visto così giusto per coso. Non c'ha nulla. Ma non so se si può modificare. Ma questi sono apparecchi da usare così sono. Col prezzo lì ti potevi prendere ad esempio questo qua, questo Intec che ha 400 canali, E vabbè, l'ho voluto comprare uno così, io sono una radio omologata per casa, per usare così. Tanto se voglio parlare, se voglio qualche cosa di più ce l'ho. Ce l'hai visto che ce l'ho. Ed è proprio perché lo voglio normale, lo voglio senza molte pretese, perché è giusto da parte mia che ci usi anche un baracchino normale. Giustamente, sono d'accordo, sono più che d'accordo. Io la penso così, è giusto che qualche volta bisogna usare anche il baracchino normale, poi se voglio qualche cosa di più, cioè, no, non è quello il problema. però per fare questo la sera, tanto siamo così, bomba, è sufficiente una radio così, è sufficiente, secondo me. La cosa ti farebbe uscire decisamente meglio avere un'antenna come si deve, capito? Bisogna studiarla. C'è un progetto di un'antenna che si chiama Mollone, si tiene dentro la stanza e sicuramente ti farebbe uscire molto meglio. Vabbè, anche a metterla nel balcone. Già mi farebbe uscire bene. Puoi tenere neanche sul balcone? Non hai visto dove ce l'ho? Se tu il giorno che sei passato alzavi la testa, la vedevi? Boomerang non ne hai? Mamma mia, non la posso vedere. A guardare però ti fa uscire meglio, o no? Molto meglio questa della boomerang, lascia perdere. C'ho anche la Storm 27, l'ho dovuta togliere. Fai cosa, lasciamo perdere là. Si può provare ad autocostruire questa bazooka, capito? No. Adesso c'ho la Storm 27. Della Storm 27, un bazooka. Che voi chiamate bazooka? Ce l'ho. Ho capito. Vabbè. Mi dispiace perché sarebbe stato bello sentirti un attimino meglio. E scappa. Ma comunque anche con questa va abbastanza bene. Non penso che sia così brutto. Così brutto, è basso il segnale però, capito? È basso il segnale. Sì, il segnale. Te lo posso dire perché però si sente che non è un segnale potente, quindi sei basso di radio di conseguenza, capito? Vabbè, mi devo accontentare, lo da posso. Scappa. Se voglio, cioè non lo posso fare, però se voglio, come se senti di una bomba, ma non lo posso fare. Bene, già va bene, dai. Già va bene, Massimiliano. Sì, sto preparando il filmato. Parando? Il filmato, ti ho registrato comunque prima. Facendo il filmato e dopo te lo metto su Facebook, così ti ascolti come sta uscendo schifosamente. Però prima, infatti pensavo stessi parlando con Gianni perché mi ha chiamato Gianni, quindi non capivo per quello. Oh, Antonio, non Gianni. Buonasera Massimiliano, scusa se non ti ho salutato. Ah, è qua il problema, così pare, buonasera a te. Ma forse da te arrivo meglio di Antonio. Sì, arrivi 9, la radio è buona. No, si usano un apparecchietto. Ma andiamo abbastanza bene, dai. Esci bene, esci bene. Devo iniziare a cucinare la pasta, eh. Ah, a magna. A magna, dai, carica batteria per me e ci sentiamo dopo se coincide. Ciao, ciao. Ciao, buon appetito, a dopo. Nel frattempo do uno sguardo al filmato che stai caricando. Dammi un po', una mezz'oretta e poi te lo puoi guardare. Va. Vai, grande cuoco, cucina. Massimiliano. Eravamo un po' di tempo senza sentirci adesso. Sono impegnato durante la settimana. Sabato e domenica è compreso. Capo, pure io mi sono sempre impegnato. Però se trovo quei 2 minuti già entro volentieri. Stai facendo l'esperimento delle registrazioni? Ah, ho già registrato, sì, lo sto trasformando per metterlo su Facebook. E anche su Facebook? Sì. Scappa. Ok. Ho sentito tante volte che metti parecchie conversazioni, cose, esperimenti su Facebook, mi confermi? No, anche perché ho messo un paio di registrazioni, ma video più che altro per vedere una apparecchiatura che c'avevo, per controllare le larghezze di banda, piuttosto i tipi di emissioni e basta, no? Non ho tanto tempo per fare queste cose. Ciao, va bene, questi sono dei begli strumenti, quelli lì. Costano un pacco di soldi, pure a me mi piacerebbe vederli funzionare, come funzionano, sono molto curioso. Lo so, sono delle... un attimino solo, perché se modulo poi mi si blocca il mouse, che purtroppo c'è un mouse che lavora in 27 mega, come di mente. Un attimino di stand by. Pure a me succedeva, perché wifi non c'è problema.